Friuli nel mondo, 111esima trasmissione dedicata agli emigrati. Tiare Furlane. Quattro espressivi componimenti poetici e tre villotte melodiose e nostalgiche sono il tema di questa trasmissione che oggi dedichiamo a voi, cari amici in ascolto. Nell'interpretazione schietta e semplice del giovanissimo coro di Ara di Tricesimo, diretto da Don Diego Moro Cutti, sentirete vibrare l'anima appassionata di questa nostra terra friulana. Signor, dainus il bundì, è una villotta di Felice Cimatti, con elaborazione corale di Bepi Lenardon, su versi di Ignoto raccolti a Verzegnis. È questa un'antica preghiera dell'umile e forte gente di Carnia. Friul è un inno alle nostre stupende montagne di Felice Cimatti, su versi del poeta Giso Fior. Oh, Eccovi ora questa stupenda villotta dal titolo Lista Jones di Felice Cimatti e di Bepi Lenardon. Il testo poetico, espresso con purezza di cuore da Giso Fior, tratteggia con brevi pennellate la reazione del nostro animo al succedersi delle stagioni friulane. Ed infine ascoltate questa preghiera di Leonardo Zannier, recitata da Ottavio Valerio. Parce a mi, signor, ogni an a mi, signor, che sta cros e che vuoi, sora sera, resta tantim, besola, in che stiet grand calcrice. Mi spuei al scur, signor, di paura di iodi. E non mi tocchi la chiar, signor, di paura di vai, di vosà. E hai cambiati l'insui, signor, avevin il suo odor, il nesti odor. Io ai metus nes, di che dal corredo. Ma il mio quarb no, signor. Il mio cor no, signor. Non può scambiaiu, signor. Mi scoltaiso, signor. Mi scoltaiso, signor. Buina notte, Tom. Pensimi. Sta ben. Scriv. Ven. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pellizzari.